Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Francia, estremismo islamico nel mirino, le contromosse del governo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. Le ministro dell'Intérieur a décidé de fermer la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis durant 6 mois. C'est pas le prophète, leur prophète, leur haine, leur barbarie, n'a rien à voir à l'islam. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Anche quest'oggi in questo viaggio ci accompagnano Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, la grammatica sonora e musicale affidata a Valeria Bernardi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, domande e commenti, ma anche i social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano torniamo a parlare dello sdegno, ma anche delle contromosse che il governo francese sta mettendo in campo per contrastare l'estremismo islamico. Almeno 51 associazioni sono state messe nel mirino degli investigatori francesi con la promessa o la minaccia, secondo dei punti di vista, di scioglimento. Una moschea è stata chiusa in un sobborgo di Parigi per almeno 6 mesi e poi le indagini vanno avanti con particolari anche francamente inquietanti. Minorenni che gravitavano attorno all'istituto scolastico, pagati dal killer per fornire informazioni e identificare Samuel Paty. E poi, come ha appena riferito il procuratore francese incaricato di questa indagine, la collera e l'odio dei musulmani che si è propagata in rete era basata su un falso racconto della lezione tenuta da Samuel Paty. Cioè, tutto questo è avvenuto perché non è stata raccontata quello che è veramente Samuel Paty aveva fatto. Questa è una delle ipotesi investigative, ma quest'oggi cercheremo di comprendere se le reazioni del governo francese saranno sufficienti o se, come qualcuno da tempo dice, siamo di fronte a uno scontro di civiltà. 349-238-6666, questo è il tema di quest'oggi e questi che vi leggo tra pochissimo sono i nostri dossier. Mentre vi parlo, tutti i media internazionali che più si occupano di Africa, fra i quali per esempio France 24, come immaginate, benché la Nigeria sia un paese anglofono, parlano di quella che è stata la reazione spropositata delle forze di sicurezza a Lagos, in particolare la capitale commerciale dell'importante paese africano. Coprifuoco di 24 ore a tempo indeterminato, quindi non si può circolare a Lagos, appunto, che è la città più importante del paese. Nonostante questo, manifestanti hanno continuato a protestare non soltanto nella zona contigua all'aeroporto. Alcuni video che sono apparsi in rete mostrano la polizia nigeriana sparare sulla folla per disperderla, secondo molti testimoni, ma anche Amnesty International, varie persone sono state uccise e ferite. Alcuni media nigeriani parlano di 12 vittime, il governatore dello stato ha detto 25 persone feriti, ma non vi sono vittime. Le proteste contro quella unità di polizia oramai disciolta, la squadra speciale antirapina, cosiddetta SARS, e quell'hashtag che tanto è andato, End SARS, nelle ultime settimane in Nigeria, stanno quindi continuando e hanno raggiunto ormai una visibilità mondiale, se ne parla nei quattro angoli del globo. E come vi avevamo anticipato, ma ripeto, non per autoattaccarci una medaglia al petto, dalla protesta mirata sullo scioglimento di quella speciale unità della polizia, la protesta, i manifestanti hanno iniziato a intonare slogan diversi, su tutti la forte preoccupazione per la mancanza di lavoro nel popoloso paese africano e la fine alla corruzione, che è uno dei problemi endemici in tanti stati africani. Nel frattempo però la situazione si sta deteriorando dal punto di vista della sicurezza. Un'importante stazione televisiva nigeriana che è collegata a uno dei partiti, degli uomini del partito al governo, è stata data alle fiamme poche ore fa mentre i disordini si diffondevano a Lagos, e questo è certamente un segnale preoccupante perché la protesta fino a questo momento era rimasta pacifica. È chiaro che se si andasse al allo scontro duro, le conseguenze sarebbero al momento assolutamente imprevedibili. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, a partire anche dal lessico, ma fra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Il tema di quest'oggi è un tema decisamente importante che coinvolge tanti stati e tante realtà mondiali, che sembrano sostanzialmente disinteressarsi dopo l'accordo di Doha a ciò che sta accadendo invece in Afghanistan. E ancora una volta violenze, almeno 34 membri delle forze di sicurezza, comprese un alto ufficiale della polizia, sono stati uccisi in un attacco che il Kabul riconduce ai talebani nella provincia settentrionale di Takhar. Altri 8 soldati feriti in uno scontro avvenuto durante la notte a Barakda, che è un distretto che da tempo è conteso tra le forze di Kabul e quelle talebane. Come al solito, nessuna rivendicazione, nessun comunicato da parte dei talebani stessi, ma evidentemente perché sconfesserebbero loro stessi quello che è l'accordo di pace siglato con gli Stati Uniti, che prevedeva anche l'accordo intragovernativo o intra-afgano, per meglio dire. E quindi è chiaro che questo eccessivo uso della violenza durante i colloqui di pace è evidentemente un paradosso che non è sostenibile. Tanto che si è fatto risentire ancora una volta Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, dicendo che i talebani devono tenere fede ai loro impegni, ridurre i livelli di violenza, spianare la strada a un reale cessate il fuoco, rompere i legami con l'Al-Qaeda e altri gruppi terroristici internazionali, e soprattutto, ha aggiunto, e chi conosce l'Afghanistan sorride amaramente, devono negoziare in buona fede. E perché sennò, ha aggiunto Stoltenberg, solo a quel momento ce ne andremo dall'Afghanistan, andando a minare quella che è stata l'ultima dichiarazione di Donald Trump, che disse qualche giorno fa: siamo pronti ad andarcene per Natale. E Stoltenberg disse: perfetto, siamo venuti con gli Stati Uniti in Afghanistan, ce ne andremo assieme. Ma a questo punto forse non andrà così. A proposito di Stati Uniti, è una corte federale statunitense che è stata coinvolta in quell'odioso omicidio avvenuto nel consolato saudita di Istanbul. Parliamo del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, la fidanzata del giornalista ucciso 2 anni fa, e un gruppo per la difesa dei diritti umani da lui stesso fondato, DAWN, che è un acronimo, ha avviato una causa civile alla corte federale di Washington contro chi, pensate, addirittura Mohammed bin Salman in persona, il principe ereditario ma che de facto regge il governo di Riyadh, e altre 28 persone considerate coinvolte nei fatti. È una presa di posizione molto diretta, molto frontale, molto dura, ed è interessante notare che avvenga in una corte statunitense. Voi sapete che gli Stati Uniti sono un solido alleato, o meglio, diciamolo al contrario, l'Arabia Saudita è un solido alleato degli Stati Uniti nel Medio Oriente allargato e nella zona del Golfo. Staremo a vedere, perché fino adesso il processo saudita, sostanzialmente a porte chiuse e con gli imputati condannati senza nemmeno sapere chi fossero, ha scontentato sostanzialmente tutti. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, con Valeria Bernardi, andiamo a Berlino. Andiamo a Berlino per raccontarvi di una notizia che è emersa solamente nelle ultime ore. Lo ha riportato nella stampa internazionale il prestigioso quotidiano inglese britannico The Guardian, ma la notizia è un po' su tutti i media tedeschi. Tenuto sostanzialmente nascosto per 2 settimane, è emerso che cosa? Un attacco senza precedenti a una serie, 70 opere d'arte in vari musei di Berlino, che sono state vandalizzate con un unguento oleoso. Non si è capito molto bene il motivo né la ratio che avrebbe spinto il comando o più comando a andare a provare a distruggere quello che è il patrimonio culturale tedesco. Secondo però la maggior parte delle ricostruzioni che circolano sui media tedeschi e che è stata ripresa anche dal Guardian, il tutto sarebbe dovuto a QAnon. Vi abbiamo raccontato in passato dei seguaci di questa teoria complottista, che sostanzialmente ha costruito un mondo parallelo in cui alcuni leader politici sono dei satanisti convinti, fanno sacrifici umani, inneggiano e praticano la pedofilia. Ecco, i seguaci, e nasce questa teoria naturalmente negli Stati Uniti, alcuni seguaci di QAnon invece in Germania, tra cui anche un notissimo cuoco vegano Attila Hildmann, che pensate, su Telegram ha 104.000 follower, su Twitter un po' deboluccio, 6.000 e qualcosa, comunque su Telegram ha avuto un discreto seguito, e nei mesi scorsi aveva postato dei messaggi che inequivocabilmente indicavano l'altare di Pergamo come un altare di Satana, sostanzialmente, dove appunto venivano compiuti anche dei sacrifici umani. Questa teoria, che chiama in causa, pensate, anche la cancelliera Angela Merkel, che sarebbe la nipote di Adolf Hitler, qua verrebbe veramente da sorridere se non fosse che questi post circolano sui canali Telegram tedeschi. Sostanzialmente, secondo alcune ipotesi giornalistiche e investigative, avrebbe creato un humus favorevole per andare a attaccare anche quello che è uno dei principali patrimoni artistici della città tedesca. In uno dei post più recenti, lo stesso Hildmann, che è appunto questo cuoco molto noto in Germania, ha partecipato anche a alcune trasmissioni televisive negli Stati Uniti, aveva scritto che appunto l'altare di Pergamo era a tutti gli effetti il trono di Satana. Questo per darvi la dimensione, ripeto, con grande laicità, di quanto possa essere pericolosa questa teoria del complotto, che non è un'adesione folcloristica e istrionica che qualcuno potrebbe pensare. Evidentemente, se confermata questa tesi, ha avuto questo esito benefico, quantomeno per l'arte, in Germania. 349-238-6666, tra pochissimo andremo a Parigi. Ci sono un po' di messaggi che fanno riferimento alle notizie dei nostri dossier internazionali, come si fa a fidarsi dei talebani così, Sam? E evidentemente a questo punto ci si deve fidare dei talebani, caro ascoltatore, perché il disimpegno statunitense e quello della comunità internazionale è lì, è nei fatti e deve avvenire, perché dopo 20 anni di impegno e triliardi di dollari spesi, gli Stati Uniti non possono più farsi carico della pacificazione di questo paese. A questo punto la palla passa davvero nelle mani del governo talebano, nelle mani delle forze di sicurezza afghane. Gli esiti non sono esattamente positivi, non sono ottimisti a ben vedere, però la comunità internazionale qualcosa ha fatto, un po' ci ha provato, addestramento, grandi fondi spesi. E poi interessante un altro ascoltatore che continua a sollecitarci. Parleremo, non si preoccupi, di Biden, lo abbiamo già fatto peraltro, anche delle implicazioni del figlio in Ucraina. Non c'è nessuna volontà di censurare quell'esplosivo capitolo per il candidato democratico. E poi ci sono un po' di ricette che vengono proposte da voi ascoltatori su quella che viene, e cito un ascoltatore testualmente, definita la silenziosa e subdola penetrazione in Europa dei capitali dell'estremismo islamico. Andremo tra pochissimo proprio su questi temi, però per prima cosa, come al solito, in 90 secondi entriamo dritti nel cuore del tema di quest'oggi. Nous sommes tous Samuel Paty. Samuel Paty. Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie dans ce collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Era un professore di storia e geografia in questo istituto di Conflans-Sainte-Honorine. C'était un homme très souriant, très positif. Era sorridente, positivo. Toujours la joie de vivre, qui encourageait ses élèves. Incoraggiava sempre i suoi studenti. Très blagueur pour mettre à l'aise ses élèves en cours, en fait. Scherzava sempre per mettere a loro agio gli studenti. Le ministre de l'Intérieur a décidé de fermer la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis durant 6 mois. Il ministro ha deciso di chiudere la moschea di Pantin per almeno 6 mesi. Je pense que c'est pas normal qu'on punisse toute une communauté pour une personne. È assurdo che puniscano un'intera comunità per una persona sola. Samuel Paty est mort d'avoir été laissé seul. Samuel Paty è morto perché è stato lasciato solo. L'horreur. L'horreur, l'exaspération, la lassitude. Ci lasciano con l'orrore, l'esasperazione, la stanchezza. Così Valentina Ternullo, Varela Bernardi in questa copertina in appena 90 secondi provano a portarci dritto al cuore della puntata di quest'oggi. Aggiungo un paio di tasselli, non irrilevanti peraltro. La reazione del governo francese, basta parole, vogliamo fatti e azioni, così una buona parte dell'opinione pubblica transalpina ha chiesto all'esecutivo di contrastare la violenza che sta segnando ormai il paese almeno dal 2015 in poi. Macron ha promesso azioni, una di queste, l'avete sentito, la chiusura di una moschea considerata radicale nella banlieue parigina, e siamo a Pantin. L'imam aveva rilanciato sui social il video del padre di un'alunna che invitava a prendere provvedimenti contro Samuel Paty, l'insegnante decapitato, barbaramente ucciso da quel giovane di origine cecena. Nel frattempo anche la ministra francese alla cittadinanza, Marlène Schiappa, ha incontrato i vertici dei principali social network, quindi le divisioni francesi, per cercare di porre fine a quella che è stata sostanzialmente una catena che ha riportato eventi non veri. È stata data una versione di ciò che è accaduto in classe che non era veritiera, non corrispondeva alla realtà. Questa è l'ipotesi degli investigatori francesi, il che ha causato in maniera incredibile quello che sapete. E poi la chiusura di tante associazioni, almeno 51, tra cui anche associazioni del terzo settore. Per esempio, stavo seguendo l'account Twitter di Baraka City, che sta protestando ovviamente sui social, perché racconta questo poche ore fa: questa sera abbiamo ricevuto una notifica dalla parte del Ministero dell'Interno di una procedura in via di dissoluzione della nostra ONG, traduco in questo momento dal francese, una notifica intrisa di calunnie e false accuse, che naturalmente riusciremo a provare che sono false, così Baraka City fra le tante. Aggiungo un altro tassello, ma poi il nostro ospite di quest'oggi sicuramente mi darà una mano per capire i contorni e le dimensioni di questa presa di posizione. Ahmed Al-Tayeb, che è il grande imam sunnita di Al-Azhar, che è il faro guida, diciamo, la principale istituzione per quel che riguarda il mondo musulmano, ha definito l'uccisione di Paty un atto criminale odioso, ma allo stesso tempo ha aggiunto che insultare le religioni nel nome della libertà d'espressione costituisce un appello all'odio. Tra poco vengo a voi, gentili ascoltatori, uno su tutti, perché così mi dà la palla, il destro per così dire, per dare il benvenuto intanto a Renzo Guolo, insegna sociologia della religione all'Università di Padova, autore fra l'altro di Jihadisti d'Italia, la radicalizzazione islamica nel nostro paese. Professor Guolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, al 349-238-6666, un ascoltatore, Dario, scrive: credo proprio che siamo di fronte a uno scontro culturale, non tra cristiani e musulmani, bianchi e neri, ma tra chi accetta la libertà e le differenze culturali e chi crede nelle supremazie. Professore, è giusta questa lettura? È corretto utilizzare queste lenti per leggere quello che è accaduto in Francia? Beh, diciamo che le categorie possono essere queste, ma sono di carattere etico-morale. In realtà siamo in presenza di interpretazioni, oltretutto, sia della laicità che di ciò che sarebbe religione o Islam, e in qualche modo questo tipo di interpretazione produce anche lo stato di dibattito attuale. Sì. Cioè, siamo in una situazione in cui oggettivamente si tratta di capire che siamo in presenza di settori di matrice islamista radicale che ovviamente vanno contrastati, perché ovviamente mettono in campo, seppure non sono di matrice direttamente jihadista, ma possono provocare con le loro posizioni, come si è visto, no? Episodi, sì, invece, che si rifanno a questa dottrina. Ma il dibattito francese sta prendendo una piega un po' più complessa, ovvero anche perché molti attori all'interno della Francia o prendono posizioni politiche. Pensiamo al manifesto, appunto, dell'organizzazione, per esempio, di Valls, l'ex primo ministro, in cui in realtà la discussione sta diventando tutto l'Islam o comunque l'Islam ritenuto tradizionalista o salafita. Questa è una questione molto più complessa, non solo perché tocca la questione dei cosiddetti, diciamo, posizioni di opinione, ma anche perché evidentemente va a ricalcare le posizioni di alcuni anche influenti studiosi anche nel dibattito politico francese, come per esempio Gilles Kepel, che considera tutto il salafismo potenzialmente come una sorta di precursore del terrorismo jihadista. Se questa posizione fosse fatta proprio dalla Francia, beh, la Francia dovrebbe fare i conti con una sorta di disobbedienza civile interna molto molto forte, perché molti si riconoscono in queste organizzazioni e costituiscono le strutture principali con cui spesso lo Stato francese ha interlocuzione nella gestione, diciamo, dell'ordine pubblico, certo, del territorio, e quindi sta diventando, cioè le posizioni ideologiche di principio stanno polarizzando il dibattito, quasi costringendolo a una sorta di vicolo cieco, come se alla fine non ci fosse una soluzione in cui non ci possono essere, come dire, due vincitori, e quindi qualcuno potrebbe uscirne ovviamente duramente sconfitto, e però se ci sei questa sconfitta bisogna mettere in conto che potrebbero anche transitare poi reazioni che vanno invece ad aumentare il dissenso e l'implementazione dei gruppi radicali che non aspettano altro che questo. Quindi insomma, è una partita molto complessa. È molto complessa, il tema è molto delicato. State ascoltando la voce del professor Renzo Guolo, insegna sociologia della religione all'Università di Padova, autore di innumerevoli libri proprio su questo tema, anche nel nostro paese, che per fortuna non ha quello che un ascoltatore definisce uno scontro di civiltà, e mi chiede in maniera evidentemente ironica se ho dubbi sullo scontro tra civiltà, ma dalle parole del professor Guolo dobbiamo forse abbracciare un po' di più la complessità in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. E poi una precisazione che le chiedo, professor Guolo, per non tutti gli addetti ai lavori: quando si parla di salafismo si intende una corrente dell'Islam sunnita, ma mi corregga se sbaglio, che è particolarmente legata ai valori tradizionali, l'utilizzo per esempio degli abiti, la lunga chemisa bianca, che indica, no, una... come dire, una lettura particolarmente ortodossa. Mi corregga se sbaglio, aggiunga pure, anzi, per favore. Così, ma ovviamente esiste un salafismo aggressivo e jihadista e un salafismo che potremmo considerare ipertradizionalista. È proprio qui il punto, da sempre gli schieramenti politici più attenti stanno, sono attenti a non saldare queste due posizioni, perché dal punto di vista formale il riferimento ideale o ideologico spesso è il medesimo, ma poi vi sono strategie completamente differenziate. Ecco, allora il dibattito francese sta scivolando su una posizione in cui si dice, per esempio, i fratelli musulmani sono uguali agli jihadisti. Allora, qualunque sia l'opinione su questo, bisogna capire le conseguenze, perché ovviamente verrebbero messe fuori gioco tutte le organizzazioni di matrice sì islamista ma non jihadista, che in qualche modo fanno anche da contenimento di questa barriera, perché le organizzazioni jihadiste considerano i fratelli musulmani una sorta di apostati, degli innegati, proprio perché hanno accettato, per esempio, di misurarsi elettoralmente, come si è visto in Egitto, appunto, o in Tunisia, ma anche all'interno dei paesi europei ritengono che facciano troppo compromessi col regime. Ora, la vera partita in gioco per garantire la convivenza è riuscire semmai a separare questo schieramento, non a unificarlo sotto la pressione di una manovra che in quel modo costringe a una sorta di istinto atavico riflesso a cementarsi in nome della fede comune. Cioè, sì, semmai bisogna valorizzare le differenze per poter isolare l'estremismo religioso in matrice jihadista. Valorizzare le differenze e quindi trovare, visto che siamo in Francia, le nuance, le sfumature. Questa è un po' la missione di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Lo stiamo facendo grazie al professor Renzo Guolo, che insegna sociologia delle religioni all'Università di Padova. Lo faremo anche grazie ai vostri messaggi. Ve ne leggo uno prima di andare a sentire la borsa. Alberto: non giustifico ovviamente l'omicidio francese, ma siamo sicuri che la libertà di espressione debba scadere nell'offesa della sacralità altrui? E questo, gentile Alberto, è un tema che fin dagli efferati omicidi di Charlie Hebdo è stato al centro dell'agenda, quantomeno della discussione politica e non solo culturale francese. Quest'oggi stiamo provando a fare un passo in più, stiamo cercando di stabilire se è uno scontro di civiltà o, come si diceva il professor Renzo Guolo, dobbiamo andare al di là di quel muro contro muro e provare ad andare a vedere i singoli tasselli, i singoli mattoncini di quel muro, perché su quelli forse si può lavorare. La borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. La reazione della società civile francese, quella l'abbiamo vista con marce, con veglie funebri in onore di Samuel Paty, l'insegnante che ha pagato con la vita il desiderio di mettere al centro di una lezione di educazione civica l'idea, il concetto di libertà di espressione, mostrando quindi quelle vignette, famose o famigerate, decidete voi, pubblicate da Charlie Hebdo, quelle sul profeta Maometto. Quest'oggi stiamo provando a ragionare sulle sfumature, a cercare di non descrivere quello che sta accadendo come muro contro muro, perché forse è l'errore più grave che possiamo fare per comprendere e poi eventualmente agire. Questo è l'invito che ci arriva dal nostro ospite. Renzo Guolo insegna sociologia della religione all'Università di Padova. Prima di tornare da lei, professore, un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno dice i fratelli musulmani così legati alla Turchia sono un vero problema, la rovina del mondo islamico moderato. Qualcun altro, Musumeci non si sentono mai musulmani a condannare questi omicidi orribili, così Michele, in realtà non è vero perché a pochissime ore di distanza dall'efferato omicidio, e vi sto leggendo Le Monde, si è fatto sentire Mohamed Moussaoui, che è presidente del consiglio francese del culto musulmano, si è fatto sentire tra gli altri Tarek Houbrou, che è imam della grande moschea di Bordeaux, che hanno denunciato anche sui media francesi quello che era accaduto come un efferato assassino assolutamente dal quale dissociarsi. Addirittura, e leggo testualmente quello che dice Mohamed Moussaoui, lo ripeto, presidente del consiglio francese del culto musulmano, l'irruzione del terrorismo che si appoggia all'Islam, una pandemia mondiale feroce. Insomma, questa è sicuramente una presa di distanza. Qualcun altro tra voi ascoltatori scrive in maniera anche abbastanza sintetica, ma poco pregna di contenuto, onestamente. Leggete il Corano, è tutto scritto lì, non c'è scontro di civiltà, la conquista di un popolo rammollito dal benessere, reagiremo quando sarà troppo tardi, e così via. Torno dal professor Renzo Guolo, ma prima, professore, le faccio sentire quella che è stata una forse strana reazione da parte del governo francese, la chiusura della moschea di Pantin. Abbiamo chiesto lumi a Bernadette Sauvager, che è giornalista di Libération, esperta di questioni religiose, che senso ha questa chiusura? Sentite. La fermeture de la mosquée de Pantin est un avvertissement. La chiusura della moschea di Pantin è una sorta di avvertimento del governo agli imam affinché non sostengano questo tipo di campagne. Ciò nonostante, non credo che sia un modo efficace per combattere la radicalizzazione. Quella di Pantin è in realtà una moschea piccola, in un quartiere della banlieue parigina estremamente svantaggiato. Certo, l'imam principale della moschea è salafita, ma non stiamo parlando di un centro di diffusione del salafismo in Francia o di un centro di radicalizzazione. Per quanto ne sappiamo, nessun fedele della moschea di Pantin è partito per raggiungere l'ISIS. Quindi questo gesto rientra all'interno della comunicazione politica, un avvertimento ai responsabili dei luoghi di culto affinché non portino avanti questo tipo di campagna. Professor Guolo, abbiamo sentito la voce di Bernadette Sauvager, che però pone un punto importante, forse una reazione un po' scomposta da parte dello Stato francese. Lei cosa pensa? Sì, concordo, ma non perché ovviamente bisogna sottovalutare il problema, anzi il problema è estremamente grave, sia chiaro. Il problema è, come dicevamo prima, quali sono gli strumenti per combattere e dividere internamente la comunità musulmana, perché dobbiamo pensare che il radicalismo islamista è una corrente minoritaria, ma in grado spesso, attraverso azioni che hanno oltre un impatto enorme sulle vittime, ma anche un'enorme rilevanza dal punto di vista simbolico. Allora, ovviamente qui l'attentatore è andato a toccare diciamo, un tema che è di una sensibilità enorme per i musulmani in Francia, che è un paese che propone un modello di integrazione culturale assimilazionista e che fa come riferimento principale la sua laicità cosiddetta negativa, dove negativa non significa sì, un termine, non è un giudizio di merito, stigmatizzate, sì. Ma negativa vuol dire che tende a espellere qualsiasi segno della religione dalla scena pubblica, sì. La laicità italiana, cioè inclusiva, tende semmai addirittura a costituzionalizzarli, appunto, questi elementi. E nel bene e nel male i due modelli sono completamente differenti, ma dobbiamo avere presente tutti che quello francese è l'unico modello simile in Europa, perché nella Gran Bretagna, nella Germania, nella Spagna, in Italia hanno un tipo di modello di questo tipo e un tipo di laicità di questo tipo. Anche questo è portato ovviamente dell'eredità storica della Francia in quanto patria ed erede appunto dell'illuminismo e della rivoluzione. Però appunto il fatto che sia sicuramente ci sono moschee salafite di obbedienza salafite o associazioni come la famosa Baracca Sinti o da altre che sono state toccate, sì, guidate dai salafiti. Si tratta di capire se questi strumenti sono quelli giusti per poter andare a incidere su questi elementi. Guardate, qui siamo di fronte a un problema e la Francia deve fare un po' i conti con questo. Cioè, tutti gli altri paesi, anche in Italia, faticosamente, anche per l'opposizione di alcuni attori politici, stanno cercando di costruire una sorta di Islam di Stato attraverso una forma di nazionalizzazione della religione. Cioè, sostanzialmente si ritiene che fondamentalmente sia meglio creare un Islam che rompa legami transnazionali con mondi esterni che possono essere più sottoposti alle influenze di correnti dottrinali appunto molto molto rigide o addirittura estremiste. Ma questo processo inevitabilmente implica una politicizzazione. Allora la Francia si trova di fronte ancora una volta a questo nodo: da un lato vorrebbe appunto costruire il suo Islam di Francia, dall'altro ha una impostazione legislativa e discorso sulle religioni che tende a espellere l'Islam dalla scena pubblica. E questo è un modello contraddittorio, perché certo, ovviamente allora solo se si definisce un confine, il confine non è che salvaguarda necessariamente la Francia da attacchi radicali jihadisti, perché il radicalismo sarà superato nel momento in cui il suo ciclo politico si esaurisce e purtroppo le condizioni che lo riproducono sono ancora presenti, questo è evidente, perché si riproduce per fattori che sono, come dire, anche extra nazionali, extra francesi, cioè fattori internazionali. Certo, anche. Certo. Ma allo stesso tempo questo elemento mette un confine e ciò che è Islam di Francia e ciò che non lo è. Ma se l'Islam di Francia è incompatibile con la laicità, la francese non se ne esce, per cui sostanzialmente l'Islam sarà vissuto in Francia essenzialmente come una religione non tanto di stranieri, perché la maggior parte sono cittadini francesi, ma comunque una religione straniera. Allora insomma diventa molto complicato poi procedere con processi di integrazione spinte di questo tipo. Fino adesso abbiamo avuto due sistemi che coesistono e in qualche modo gli eventi di questi giorni però fanno capire che siamo arrivati a una sorta di rivelazione, insomma, o il percorso finisce dentro la costruzione vigorosa di un Islam nazionale, sì, che presuppone una, sì, certa attenuazione alla laicità di Stato, oppure le comunità vanno per conto proprio e sono anche più esposte a influenze di tipo radicale. La resa dei conti, così la definisce il nostro ospite, il professor Renzo Guolo, insegna sociologia delle regioni, lo ricordo, all'Università di Padova. Un ascoltatore: lo scontro sarà inevitabile se non saremo in grado di pensare politiche realmente integrative, disinnescare la capacità consolatrice della fede attraverso reale emancipazione materiale e sociale del musulmano all'interno della società europea. Inoltre, conclude l'ascoltatore, credo che si debba incoraggiare in qualche modo la discussione meramente teologica, questo nel mondo sunnita, e forse fa riferimento anche a un po' di temi che accarezzava il professor Guolo quando parlava di influenze straniere. Pensa al wahabismo saudita, penso anche all'iperattivismo dei sauditi in alcune zone del mondo, certamente non l'Europa, ecco, ma in altre zone, come dire, è provato e conclamato che abbiano avuto anche una influenza benefica. Ho l'ultima domanda per lei, professor Guolo, però prima andiamo sulle strade italiane, vediamo come se la sta cavando chi è al volante in questo momento, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Muro contro muro, scontro di civiltà oppure resa dei conti. Anche il lessico in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano ci riporta inevitabilmente a quella che è una violenza, la violenza dello scontro di visioni. E i vostri messaggi al 349-238-6666 ne sono una prova inequivocabile, anche molto plastica. C'è qualcuno che scrive in maniera perentoria: l'Islam è nemico, va estromesso dall'Europa. Qualcun altro scrive di segno totalmente opposto: scontro di civiltà, se guardo la realtà sono milioni i musulmani uccisi dagli occidentali in Iraq, Afghanistan, Libia, prima la Palestina. La lista è molto lunga, la domanda è chi aggredisce chi. Però così, gentili ascoltatori, alla faccia di mettere il grand'angolo, qua la visione diventa quasi satellitare. Proviamo a stare sul tema, allarghiamolo, sì, passiamo dalla Francia, andiamo in Italia, lo facciamo sempre col professor Renzo Guolo, al quale chiedo, ed è l'ultima domanda prima di congedarlo e ringraziarlo tantissimo per il suo contributo, se l'Italia corre un rischio di trovarsi magari tra qualche anno in una situazione molto simile a quella francese, oppure se il modello italiano che ci ha descritto è così diverso da quello francese, è così ricco di anticorpi che in qualche modo siamo al sicuro da queste derive violente. Beh, possiamo dire questo: noi abbiamo per una volta un benefico ritardo, si parla sempre dei ritardi italiani su tanti punti di vista, modernizzazione, insomma tecnologia, insomma per una volta abbiamo un benefico ritardo, nel senso che abbiamo una serie di fattori che però sono destinati ad attenuarsi nel tempo, ovviamente più passa il tempo più questo divario si colma e quindi questo vantaggio si diminuisce. Sì. Quali sono? Cioè, da un lato abbiamo una ridotta presenza di seconde generazioni. Le seconde generazioni sono ovviamente in tutti i paesi particolarmente problematiche, ma non perché sono portatrici di una violenza intrinseca, ma perché vivono quel tipo di esperienza che li mette in una sorta di doppia assenza, non appartengono più necessariamente alla cultura tradizionale della famiglia, ma non sono nemmeno inseriti bene nella realtà in cui vivono, e questo genera un sentimento di frustrazione. Non è un caso, per esempio, che la maggior parte delle seconde e terze generazioni che nei paesi europei hanno fornito, diciamo, un consistente numero di militanti affluiti nei ranghi dell'ISIS, no? Questo esodo che dal 2011 sì. ha visto molti cittadini europei, circa 6.000 cittadini, sto parlando, non certo. residenti, certo. A combattere sotto i vestiti di Al-Qaeda dell'ISIS. Abbiamo poi un modello che è diverso rispetto alle condizioni sociali, nel senso che noi abbiamo un insediamento del lavoro che è naturalmente policentrico, non abbiamo grandi bandie attorno alle città, ci sono le periferie, ma ovviamente le bandie parigine sono diventate un concentrato di problematiche non solo urbane, come teoricamente dovrebbero essere, ma tipicamente sociali, cioè sono contenitori di svantaggi sì. sono amplificati fino a farne diventare una sorta di luogo claustrofobico che però a un certo momento non riesce più a contenere questo disagio che si riversa verso l'esterno. Ecco, quindi noi abbiamo semmai una presenza molto più capillare, sì, questo genera sì. anche fenomeni di reazione locale, ma meno complessa perché sì. fa meno massa critica. È come se lo scontro fosse diluito, no, professore? Esatto, quindi più gestibile. Per effetto ecco. del tessuto sociale. Chiaro, chiaro. Ecco, mentre non è così nella periferia di Parigi, la periferia di Marsiglia, di Lione, non di Lille, Roubaix. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il terzo elemento è legato al fatto che abbiamo in ogni caso una consistente esperienza in termini di contrasto al terrorismo mutuato sotto altre forme in passato. Sì. E anche questa, come dire, un'abilità che va tenuta in considerazione, e un altro è il fatto che sostanzialmente noi abbiamo, sembra un paradosso, ma rientra sempre in quel tentativo che abbiamo fatto in questa trasmissione di vedere le differenze per cogliere gli aspetti, abbiamo un Islam molto plurale, che non vuol dire, non intendo dire pluralista, dico plurale, cioè abbiamo per composizione della popolazione immigrata, in particolare quella musulmana, una frantumazione di carattere etnico che in questo momento, ma ripeto, per qualche sì. anno, non di più, fa da barriera, perché è molto più difficile che un'ideologia transnazionale riesca a penetrare in culture che hanno riferimenti che sono tipicamente attribuibili a quel gruppo etnico, a quella confraternita. Faccio per dire le confraternite dell'Africa subsahariana che sono presenti in Italia tra popolazioni dell'Africa occidentale sono molto più difficilmente penetrabili inizialmente dal fondamentalismo islamico, perché hanno elementi che i fondamentalisti islamici considerano pure eresie. Assolutamente. Ma questa vicenda tende poi a omogeneizzarsi nel tempo, perché si perdono poi nel soggiornare in un paese. Allora, certo. tutti questi fattori, se sarebbero altri, non è che ci consentono di godere di questo benefico ritardo per tutta sì. quanti anni. Può essere che fra 3 o 4 anni ci troviamo in una situazione, se non analoga alla Francia, in cui, come dicevo prima, il modello di laicità, di assimilazione, comunque è un elemento molto conflittuale, percepito così da una buona parte dei musulmani francesi, però è una situazione che forse può avvicinarsi più a quella tedesca e britannica, che un loro grado di criticità hanno comunque. Quindi dobbiamo sempre sperare lo stellone italico per sì, capire. Sì, sì, sì. È stato chiarissimo il professor Renzo Guolo, che insegna sociologia della religione all'Università di Padova, e che ringrazio tantissimo, professore. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, però sono quasi in chiusura, allora voglio farvi sentire ancora la voce di Bernadette Sauvager, giornalista di Libération, esperta di tematiche religiose. Anche il professore faceva riferimento a due temi: uno, alcuni tipi di moschee; due, la radicalizzazione. Ecco, qual è il rapporto tra radicalizzazione e moschea dopo la chiusura di quella di Pantin? Sentite la giornalista. En ce qui concerne la lutte contre la radicalisation, la lotta contro la radicalizzazione è un problema estremamente complesso. Già sappiamo che la maggior parte dei foreign fighters partiti a combattere in Iraq e in Siria non sono passati per il circuito delle moschee. La strategia migliore da adottare contro la radicalizzazione è una questione che si pone ormai dagli attentati del 2015 e alla quale non abbiamo ancora trovato risposta, data appunto la complessità del tema. La novità del nuovo ministro degli interni è questo approccio repressivo, quasi eccessivo. Stiamo assistendo a molta comunicazione politica, ma attendiamo di vedere se alle parole seguiranno i fatti. Speriamo che questo approccio non sia controproducente e non rinforzi i processi di radicalizzazione. Il fatto è che ci sono generazioni di musulmani francesi che non hanno trovato il loro posto all'interno della società, che si sentono discriminati e offesi, e questo li spinge tra le braccia della radicalizzazione. Dans la radicalité et dans la radicalisation. Queste le parole di Bernadette Sauvager, giornalista di Libération, esperta di questioni religiose. Dicevo, tanti i messaggi, già che mancano pochi secondi, fatemi arrabbiare, giusto un pochettino, giusto che siamo in chiusura. Un ascoltatore particolarmente tranciano e monolitico nelle sue opinioni: non ci sono solo gli integralisti tagliagole, ci sono masse immense intolleranti, paesi islamici intolleranti, ma non ne parlate mai. Non è assolutamente vero. Guardate il Pakistan, per esempio, ne parliamo spesso. E poi conclude: ma andate a farvi un giro nelle nostre periferie, sembra di essere a Marrakesh. Io non so in che periferia viva lei, io non vivo certo a Monte Napoleone, a Milano, e vivo anzi in un quartiere che è assolutamente permeato anche di presenza straniera. E conclude: questi sono tutti integralisti che non vogliono integrarsi, state dicendo che è pericoloso, non avete il coraggio di ammetterlo. Ma lei forse c'è mai stato a Molenbeek? Lei ha mai viaggiato per il Medio Oriente? Ha mai parlato con imam? Ha mai provato a studiare arabo? Allora tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma anche il dovere di averla informata. E detto ciò, me ne vado. You're fired. You're fired. You're fired. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, voi che avete alimentato il dibattito, l'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.